Bitcoin è una criptovaluta, che è una criptodefinizione, detta così, nel senso che non si capisce granché. Si tratta sostanzialmente di una valuta virtuale, dove poi andremo a specificare meglio cosa intendiamo per valuta, perché non è così chiaro che possa essere sovrapponibile alla moneta che utilizziamo per gli scambi di tutti i giorni. Comunque sia, è una valuta virtuale che viene emessa da una tecnologia che si chiama blockchain, viene emessa attraverso un processo che ha la caratteristica di essere sostanzialmente sicuro grazie a un tipo di crittografia che fa sì che nuove quantità di questa moneta vengano emesse solo nel momento in cui, diciamo, l'entità emittente incontra un altro soggetto che si chiama minatore, miner in inglese, il quale convalida l'emissione di questa valuta. Tutto questo complicato processo sta a indicare il fatto che si tratta di una sorta di entità digitale che ha la caratteristica di poter essere utilizzata come mezzo di pagamento sicuro e quindi non in qualche modo hackerabile, ma che sta andando, diciamo, su tutte le principali piazze e notizie, insomma, della stampa finanziaria, perché in questo momento sta diventando anche un asset da speculazione finanziaria e quindi non soltanto una semplice tecnologia di pagamento estremamente sicura che viaggia, diciamo, soltanto su circuiti digitali. Perché sta diventando un asset da speculazione finanziaria? Perché se inizialmente, diciamo, è un qualcosa che è nato appunto su internet come un circuito di pagamenti assolutamente informale, quindi non legato ai sistemi bancari tradizionali e non legato ai sistemi di pagamento tradizionali, da qualche tempo, siccome l'utilizzo di questo Bitcoin sta crescendo, soprattutto chiaramente su internet per quanto riguarda scambi che non vogliono essere tracciati dai sistemi di pagamento tradizionali, il valore di questo Bitcoin rispetto al dollaro sta aumentando fortemente. Infatti non a caso se ne sta parlando molto in questi ultimi tempi, proprio perché ormai sembra aver sfondato la doppia cifra, sia in termini di euro che in termini di dollari, e questo sta a significare che se pensiamo a quando il valore del Bitcoin rispetto al dollaro era pari a $200 qualche tempo fa, un paio di anni fa, ci accorgiamo di quanto la domanda di questo strumento sia cresciuta. Accanto al Bitcoin sono nate un'infinità di altre criptovalute, cioè di altri strumenti di questo tipo, che si appoggiano a una tecnologia che è sempre una tecnologia blockchain. Quindi si tratta di una valuta digitale che può essere utilizzata o come mezzo di pagamento digitale, quindi sulla rete, per effettuare acquisti, transazioni, per trasferire denaro, oppure può essere utilizzato per fare della speculazione finanziaria, cioè banalmente acquistandolo, vendendolo, così come si acquista o si vende qualsiasi altra commodity o qualsiasi altro titolo, quindi azione o obbligazione. Il motivo ulteriore per cui se ne parla è che spesso ci sono moltissimi dibattiti in ambito di stampa finanziaria rispetto al fatto che questo Bitcoin o le altre criptovalute che sono in circolazione possano un giorno o meno sostituire, diciamo, la valuta che utilizziamo, la valuta di Stato, quindi le varie valute nazionali. Ora, su questo, diciamo, ci sono implicazioni di politica economica molto importanti, perché una delle motivazioni che hanno spinto i primi acquirenti di Bitcoin ad acquistarli, una sorta di vocazione ideologica verso il rifiuto del controllo pubblico della moneta da parte di un'autorità, appunto, di Stato, come può essere la banca centrale, e quindi l'idea di superare il concetto di valuta di Stato imposta, quindi attraverso metodi, il cui utilizzo è imposto attraverso un metodo istituzionale, politico, a seconda delle proprie preferenze politiche, anche coercitivo. E perciò dietro la nascita di Bitcoin c'è questa spinta al superamento, diciamo, del controllo pubblico della valuta. Ma chiaramente, come anche ha rimarcato lo stesso amministratore delegato della società che porta appunto il nome di Bitcoin, Bitcoin è un asset, cioè è un titolo che, a differenza della moneta come tradizionalmente intesa, non è la passività, cioè il debito di un soggetto pubblico che la emette e quindi diventa il credito di tutti coloro che la detengono, ma è un'attività, cioè un titolo, come potrebbe essere un titolo riguardo al possedimento di oro o un'obbligazione o un'azione, che non è una passività di qualcun altro, in particolare non è una passività di un'autorità pubblica. E quindi, ecco, se da un lato ci sono grandissime tensioni sui mercati, tensioni anche positive di euforia legate al fatto che il prezzo di questo titolo stia crescendo, ecco, dall'altro c'è questo dualismo comunque che continuerà ad essere, a restare in piedi anche se il Bitcoin dovesse diffondersi ancora di più rispetto ad oggi, cioè il fatto che, appunto, appunto allo stato attuale Bitcoin non è una moneta ma è un titolo, e quindi può essere utilizzato o per pagare qualcosa oppure per semplicemente tenerselo e aspettare che il prezzo cresca o salga a seconda della direzione in cui si sta scommettendo. Ho letto un po' di cose su appunto la febbre degli ultimi giorni attorno al Bitcoin. C'è chi dice è una bolla, come tutte le bolle esploderà, e chi sostiene che alla fine, anche se dovesse esplodere, non farebbe così tanti danni all'economia. Se questa storia del Bitcoin poi scoppierà come le bolle dei tulipani o come la bolla della dot-com, è ancora un qualcosa di assolutamente incerto, perché appunto esistono almeno due tipi di utilizzi fondamentali del Bitcoin, cioè da un lato quello di essere un asset da speculazione, dall'altro quello di continuare ad essere un mezzo di pagamento per transazioni informali non tracciate. E finché questo tipo di utilizzo, cioè quello come mezzo di pagamento, continuerà ad esistere, chiaramente ci sarà una domanda di questo strumento che resta, diciamo, in essere. Però sicuramente la crescita del prezzo del Bitcoin si sta già configurando, è già ad oggi tuttora uno degli episodi, diciamo, di bolla intesa come rapidissimo aumento del prezzo di un titolo nella storia della finanza, ha superato di gran lunga gli episodi critici della crisi dei tulipani, critici verso l'alto, quindi ha già tutti, diciamo, i contorni della storia di una bolla. Rispetto a quanto dicevi sulla possibilità che questo causi o meno dei grossi problemi alle economie, beh, naturalmente è difficile che si possa intravedere una ripercussione di questo alla cosiddetta economia reale, ma proprio perché finché il Bitcoin rimane come un asset da speculazione o comunque un pagamento impiegato da chi non vuole essere tracciato, poi di fatto le ripercussioni sull'economia non vanno al di là di chi la sta utilizzando. Diverso è il discorso di chi crede che comunque questo tipo di criptovalute possano sostituire un giorno le monete tradizionali, e in quel caso naturalmente ci sarebbero delle fortissime ripercussioni. Ma appunto pensare che queste criptovalute possano sostituire, diciamo, almeno in tempi umanamente ragionevoli le monete di Stato è davvero difficile, perché la maniera attraverso cui la valuta di Stato viene imposta è una sorta di fiducia del pubblico nella capacità che questa valuta ha di permettere il pagamento delle tasse sostanzialmente, e poi di mantenere il suo valore inteso come prezzo in termini di beni e servizi costante nel tempo. Il Bitcoin non ha nessuna di queste due caratteristiche, cioè la fiducia nel fatto che con il Bitcoin si possa pagare è soltanto un'aspettativa nella fiducia degli altri, quindi è un ragionamento circolare, e poi soprattutto è la volatilità enorme che il Bitcoin sta dimostrando di avere, insomma, giorno dopo giorno ci sono, ogni giorno Bitcoin chiude a un prezzo che può variare anche di 5.000 euro, di 2.000 euro da settimana a settimana. Ecco, queste due caratteristiche lo rendono estremamente poco pratico per essere pensato come una moneta, ma sicuramente può essere un'innovazione nel campo della speculazione finanziaria, e in parte lo sta già diventando.